Dagli incontri nascono sempre nuovi stimoli, nuove idee. Ma quando ad incontrarsi sono dei musicisti, ecco che nasce qualcosa di profondamente diverso. Qualcosa che rimane e aggiunge una nuova nota sul pentagramma. L'esperienza dei magnifici e di destini incrociati in un nuovo programma, nel quale, attraverso i loro incontri, i grandi della musica danno vita a sorprendenti connessioni per creare nuovi mondi musicali. Radio 24 presenta I Magnifici Destini, un programma di Giacomo Zito. Poi Dio si ricordò di Noè, di tutti gli esseri viventi e di tutto il bestiame che era con lui nell'arca. E Dio fece passare un vento sulla terra e le acque si abbassarono. State tranquilli, non avete sbagliato a sintonizzare la vostra radio. Questi sono i Magnifici Destini, è solo che oggi avevamo voglia di iniziare in un modo un po' diverso. Quelle che avete ascoltato sono le prime parole del capitolo 8 della Genesi, il libro dell'Antico Testamento dove si narra la vicenda di Noè e del diluvio universale. Anzi, per essere precisi, si parla della fine del diluvio, del momento in cui le acque iniziano a ritirarsi e la terra si prepara a una nuova rinascita. Già, la rinascita. È strano parlare di questi argomenti per raccontare alcuni episodi della vita di un cantante, ma se seguite con attenzione il nostro discorso, scoprirete che proprio la rinascita è il tema ricorrente nella vita del magnifico destino di oggi. Perché oggi parliamo di Anita Baker. Sono nata in Ohio. Sì, in Ohio. Ma la mia città è Detroit. Tutto è cominciato lì. È quella la mia città. Detroit, la capitale del Michigan, è conosciuta in tutto il mondo per due cose, le auto e la musica. Le auto perché è la sede della Chrysler e per questo è da sempre considerata uno dei centri industriali più importanti dell'intera economia statunitense. La musica, perché sin dagli anni 40 le notti di Detroit sono state accompagnate dalla chitarra blues di John Lee Hooker, per poi diventare il punto di riferimento del jazz americano. Poi, nel 1959, la fondazione della più importante casa discografica degli Stati Uniti, la Motown Records, fino ad arrivare in anni più recenti al simbolo del rap, Eminem. Per questo Detroit è considerata la capitale della musica degli Stati Uniti. Quindi è assolutamente normale che una bambina che respiri quest'aria si appassioni fin da piccola alla musica, magari frequentando il coro della chiesa battista del proprio quartiere e imparando così a conoscere quello strumento musicale che si ritrova nelle corde vocali. Una voce unica, un dono di Dio. Io credo in Dio e credo che certi doni non possano arrivare da nessun altro se non da Lui. La mia voce è sicuramente un dono, ma io penso che senza l'aiuto degli altri non sarei mai riuscita a fare questo lavoro. Abbiamo iniziato il nostro discorso dal capitolo 8 della Genesi, ma cosa c'entra l'arca di Noè con Anita Baker? Beh, forse niente, o forse tutto. Il significato profondo a cui si ispira il libro della Genesi è la rinascita della vita dopo la catastrofe, la vittoria della volontà dell'uomo che non si arrende alle avversità. Per questo c'entra, perché la vita di un artista come Anita Baker è un continuo cadere per poi rialzarsi, fino alla realizzazione dei propri sogni. Ma c'è anche un secondo motivo per cui c'entra il capitolo 8, perché Chapter 8 è il nome di un gruppo musicale che ha a che fare con il primo dei magnifici destini di oggi, David Washington. David suonava il basso in questo gruppo. Allora io cantavo in un altro gruppo, gli Humanity. Avevo solo 16 anni, ero molto giovane. Una sera lui venne a sentire il mio gruppo e rimase colpito dalla mia voce. Così, alla fine della serata, venne da me e mi chiese se volevo cantare con il suo gruppo. I Chapter 8 stanno facendo delle audizioni, cercano una cantante. Loro fanno soul music e ci vuole qualcuno che sappia interpretare bene lo spirito del gruppo. Non c'è bisogno di una voce anonima e fredda. C'è bisogno di qualcuno che riesca ad esprimere le emozioni attraverso cambi di tonalità e una grande flessibilità vocale. Anita Baker canta in pubblico da quando ha 12 anni ed è abituata a stare sul palco. E poi le sue corde vocali sono speciali, sono un dono di Dio. Anita riesce a coprire 3 ottave e si esprime con incredibile sicurezza sulle note basse, quelle che di solito sono proprie di un interprete maschile. Siamo nel 1975 e Anita Baker, entrata a far parte dei Chapter 8, inizia la sua carriera nel mondo della musica. In pochi anni i Chapter 8 diventano uno dei gruppi più famosi di Detroit. I locali sono sempre pieni e il gruppo arriva a incidere un disco con l'etichetta Ariola. Ma quando tutto sembra andare per il meglio, accade qualcosa di imprevisto. L'Ariola viene acquistata da un'altra casa discografica, la Arista. I manager della nuova etichetta sono convinti che ci sia qualcosa che non va nel gruppo. Non gli piace la voce della cantante e così, con questa scusa, decidono di non rinnovare il contratto ai Chapter 8, decretandone la fine della carriera discografica. La vita è piena di porte che si aprono e si chiudono. Quando non ci rinnovarono il contratto, pensai che la colpa fosse principalmente mia. E così feci quello che chiunque avrebbe fatto in quel momento. Me ne tornai a casa. Il mondo della discografia è pieno di manager di case discografiche che prendono cantonate clamorose. Ci sono artisti che, pur avendone le capacità, hanno visto terminare la loro carriera per un semplice rifiuto di qualcuno più portato ad analizzare i risultati di bilancio piuttosto che il valore artistico di un talento. Anita Baker torna a casa e lo fa nel peggiore dei modi, interrompendo del tutto la sua carriera di cantante, andando a lavorare come cuoca, come cameriera e infine come centralinista in uno studio legale. Il sogno sembra essere finito. Ma la rinascita è vicina ed è legata ancora una volta al capitolo 8. I Chapter 8 hanno infatti un manager che li ha seguiti nei 3 brevi anni di successo e che certo non può dimenticarsi una voce come quella di Anita Baker. Il suo nome è Otis Smith ed è un altro magnifico destino sulla strada verso il successo. Ho lavorato in quello studio legale per 4 lunghi anni. Ormai ero convinta che non sarebbe successo più nulla. Invece un giorno suona il telefono. Era Otis. Otis Smith, il mio ex manager. Mi dice che ha messo su una piccola etichetta discografica e mi chiede se mi interessa ancora cantare. Ero convinta che fosse uno scherzo. In un primo momento, Anita Baker risponde di no alla proposta di Otis Smith. Un lavoro è un lavoro e la sicurezza di un posto a tempo pieno non si butta via per inseguire un sogno. Soprattutto quando hai già visto quanto sia facile farlo svanire nel nulla. Otis Smith è però fermamente convinto che Anita Baker sia un artista su cui puntare per il lancio della sua nuova etichetta e così prepara un contratto e anziché sottoporlo a lei, lo fa leggere agli avvocati dello studio per cui lavora. Come compenso per l'esclusiva discografica, Otis Smith ha messo la cifra di $10,000, più di quanto Anita guadagni in un anno. Sono gli stessi avvocati a suggerirle di accettare. Per lei è giunto il momento di tornare sul palco. Tutto succede in pochi anni. Una favola che porta una ragazza di 16 anni in cima alle classifiche per poi far sì che il mondo si dimentichi di lei e la faccia tornare nell'anonimato. Il ritorno sul palco come una rinascita piena di speranza per una ragazza che crede fermamente in Dio e non smette mai di sottolinearlo in ogni sua intervista. Dio è sempre stato con me. Quando avevo perso tutto, quando non avevo più speranze, quando pensavo che il bellissimo sogno che stavo vivendo fosse finito. Ma lui era lì. E io non smetterò mai di credere che tutto fosse già scritto per me e che il successo che ho ottenuto sia dovuto solo al grande dono che mi ha dato. Il disco in uscita nel 1983 è The Songstress ed è un successo. Anita Baker ha modo di esprimere tutte le sue capacità vocali e di lasciar libero sfogo alla sua sensibilità che affonda le radici nell'anima musicale di Detroit. Il jazz, il blues, il gospel che Anita ha amato così tanto da bambina, adesso si ritrovano tutti lì, tra le note delle 8 canzoni che compongono l'album. Ancora il numero 8, il numero fortunato per eccellenza nella cultura cinese, e questa volta la fortuna gira anche per Anita Baker. Quando è uscito The Songstress, improvvisamente la mia vita è cambiata. Tutti mi volevano. Il disco vendeva bene e i fan aumentavano di giorno in giorno. Tutta la tristezza vissuta all'inizio della carriera era svanita, cancellata dal successo di questo disco. Ero molto felice. Ho passato uno dei periodi più belli della mia vita. Accanto a Otis Smith, in sala d'incisione Anita Baker trova uno degli autori più famosi d'America, Patrick Motain, un uomo che ha lavorato con Patti LaBelle, B.B. King e che ha imparato tutto su come produrre un disco da Ike Turner, l'ex marito di Tina Turner. Anita Baker non lo conosce, ma quando viene a sapere con chi Patrick ha lavorato, non può che mettersi a ridere e la ragione ce la spiega lei stessa. Tina Turner è sempre stata il mio idolo, sin da quando ero bambina e la guardavo in televisione. Sognavo di diventare un giorno come lei e mi mettevo davanti allo specchio e cercavo di ripeterne tutti i gesti. Tina ha avuto molta influenza sulla mia carriera. Quando Patrick mi disse di aver lavorato anche con lei, ho capito che il nostro incontro non poteva essere casuale. Patrick Motain scrive insieme ad Anita Baker tutti e 8 i brani contenuti nel disco. Di questi, 4 entrano nei primi posti delle classifiche americane, ma è soprattutto la canzone Angel a convincere. In realtà il successo del disco non è eclatante, però permette ad Anita Baker di creare un gruppo di fan affezionati che richiedono alla radio di trasmettere le sue canzoni, alimentando un passaparola che fa balzare il suo nome su tutti i più importanti giornali musicali. No more tears, dice la canzone, niente più lacrime. Per una volta la fortuna sembra girare per il verso giusto per Anita Baker, la regina del soul. Il disco vende, le sue canzoni scalano le classifiche e quindi è ipotizzabile mettersi subito al lavoro per fare un nuovo disco. Nella discografia la concorrenza è forte e bisogna battere il ferro finché è caldo. Il pubblico è esigente, ma si dimentica in fretta. Non bisogna perdere tempo, altrimenti si rischia di venire subito rimpiazzati da qualcun altro. Wow. Io ero pronta a entrare in sala d'incisione. Avevo voglia di scrivere, di cantare, ma poi, oh cielo, mi ritrovai a rivivere un'altra volta sempre la stessa scena. La Beverly Glam Music, la casa discografica di Otis Smith, è una piccola etichetta indipendente che però non riesce a trovare una major che creda nei suoi artisti. Le intenzioni di Otis sono buone, ma purtroppo manca quel grosso appoggio finanziario che è necessario per affrontare la produzione di un disco. Oltretutto, dal momento che il primo album è andato bene, il pubblico è più esigente e i costi per la produzione del nuovo disco devono essere più alti per non deludere le aspettative. Otis Smith non è in grado di affrontare questi impegni da solo e così lascia libera Anita Baker di esaminare nuove proposte da altri produttori. Per me è stato un dolore immenso, però capisco Otis. non saremmo mai riusciti a finire il disco. Così feci quello che avevo già fatto. Tornai di nuovo a casa mia, a Detroit. Per Anita Baker, Detroit vuol dire casa, ma non solo per un fatto anagrafico. Vuol dire trovarsi in quel luogo dove, malgrado i fatti della vita ti portino delle sofferenze, si trova sempre uno stimolo, un appiglio a cui aggrapparsi per tirare il fiato e ripartire. Un luogo, per Anita, in cui ritrovare le forze e sentirsi protetta in compagnia delle persone più care, della sua famiglia. Ho viaggiato molto nella mia carriera. Ho vissuto a Los Angeles, a New York, ma Detroit è casa mia. Non c'è altro posto al mondo dove vorrei stare. Adoro le sue strade, i suoi profumi, ma anche la nebbia, il traffico, ogni cosa. Per questo ci torno sempre quando voglio sentirmi meglio. Ancora una volta, Anita Baker è costretta a interrompere la sua carriera e i suoi sogni. Questa volta però sono in molti a chiedersi dove sia finita. I suoi fan chiedono a gran voce un nuovo disco e di questo si accorge un uomo che conosce Anita da molto tempo, sin da quando cantava con i Chapter 8. Il numero 8, ancora una volta, ritorna prepotentemente a condizionare la vita del nostro protagonista, il nostro magnifico destino. Quante volte ha provato la via del successo e quante volte è tornata a casa, nella sua Detroit? Anita Baker è caduta e si è rialzata, ogni volta con uno spirito sempre più forte per inseguire il suo sogno. Adesso è a casa sua, tra i suoi amici, dove può raccogliere le forze per ripartire ancora una volta, in attesa di qualcosa o qualcuno che le dia un'altra occasione. Arrivano molte lettere di ammiratori, di persone che sono state rapite dalla sua musica e dalla bellezza della sua voce, così particolare, capace di passare con estrema facilità dalle note basse a quelle alte. Sono in molti a non essersi dimenticati di lei questa volta, ma chi si brucia due volte deve stare attento a non farlo di nuovo, perché potrebbe essere l'ultima occasione per rinascere, ancora una volta. Quando mi capita di parlare con i giornalisti o con persone che appartengono al mondo della musica, vedo che il fatto di essere originaria di Detroit provoca automaticamente un senso di rispetto. La tradizione che ha la città come culla della musica di qualità è nota a tutti e io mi sento orgogliosa di poter dire di essere cresciuta in questa città. Il rispetto che Anita Baker riceve dai suoi colleghi e dai fan le permette di non abbattersi, di non lasciarsi andare e finalmente, dopo due anni di attesa, arriva una telefonata molto importante. Michael J. Powell è un vecchio amico, uno dei cofondatori del gruppo dei Chapter 8. Lui non si è dimenticato di Anita e adesso che lavora per la Elektra Records, un'etichetta discografica solida, importante, vede la possibilità di tornare a lavorare con quella voce inconfondibile. Un altro magnifico destino sulla strada di Anita Baker. Il più importante. Lavorare con un amico è già un bel vantaggio. Però Anita Baker ha già visto che questo non basta per raggiungere il vero successo. Questa volta bisogna mantenere il controllo totale della produzione per essere sicuri che qualche ingranaggio del complicato meccanismo discografico non le faccia perdere di nuovo l'occasione per arrivare al successo. Basta illusioni. Un altro stop sarebbe insopportabile e porterebbe Anita a rinunciare per sempre ai suoi sogni. Ecco perché sin dall'inizio la Baker partecipa alla coproduzione del suo nuovo disco, collaborando alla stesura dei testi di alcune canzoni. Una di queste è Sweet Love, che diventa in poco tempo un successo mondiale. And the Grammy goes to Anita Baker. Sentito che applauso? Ancor prima di pronunciare il suo nome, il pubblico dei Grammy Award del 1987 urla a gran voce il nome della vincitrice. Quest'anno non c'è storia, non c'è posto per Janet Jackson, per Chaka Khan, neanche per Aretha Franklin con il suo Jumping Jack Flash. No, quest'anno non ce n'è proprio per nessuno. Il palco è tutto di Anita Baker. Bob Krasnow, and we want to thank the promotion staff over at Elektra, from Mike Bone to Primus Robinson and everybody in between, my manager Sherwin Bash, Randy Bash. Quando senti pronunciare il tuo nome, è come se volassi in paradiso. Gli applausi, le grida del pubblico, gli abbracci. Mi sentivo come se finalmente avessi vinto una guerra. Una guerra durata 10 anni. In cui avevo incontrato tanta gente che non aveva creduto in me. E invece questa volta sono in molti a credere nel successo di Anita Baker. I Grammy Awards in tutta la sua carriera sono ben 8. Il successo di Rapture, il primo album prodotto da Michael J. Powell, viene superato dall'album successivo che raggiunge il triplo disco di platino. La canzone più importante che dà il titolo all'album è Giving You the Best That I've Got. Anita Baker ce l'ha fatta. La città di Detroit ha un'altra figlia di cui andare fiera. Una donna che sa affrontare momenti difficili, ma che alla fine viene ripagata con il meritato successo. Una donna semplice, che non perde mai di vista i suoi obiettivi, ma che non si lascia condizionare troppo la vita dalla ricerca estenuante del successo. Una casa sempre pronta ad accoglierla nei momenti difficili, il calore di un abbraccio grande quanto una città. E adesso che il successo è arrivato, non è il caso di farsi prendere troppo la mano. La fortuna arriva, ma può anche andare via, e conviene assaporare ogni singolo istante senza perdere il contatto con la realtà. Anzi, per rimanere più vicini a una vita normale, meglio farsi una famiglia. Negli anni di maggior successo, io e Walter, mio marito, abbiamo provato a creare una famiglia, ma in quel periodo, forse per lo stress e gli impegni di lavoro, ho sofferto 2 aborti. È stato sicuramente un brutto periodo, pieno di sofferenza. I fantasmi del passato sembrano tornare ancora una volta. In questo caso però la carriera non c'entra. Anita Baker sente il bisogno di concentrarsi di più sulla sua vita al di fuori delle serate, dei dischi, del successo. Ecco perché dopo il 3° album in 4 anni decide di dire basta. Strano, vero? Uno insegue il successo tutta la vita. E quando finalmente lo raggiunge scopre che ci sono cose più importanti che ti mancano. Una casa, una famiglia, dei figli. Con Walter abbiamo preso una decisione difficile, ma penso sia stata la miglior scelta della mia vita. Tornare ancora una volta a casa, a Detroit, e restare lontano dalle scene per qualche tempo, per crescere i miei figli. Dal 1990 al 2002, Anita Baker pubblica soltanto un altro disco, preferendo al mestiere di cantante quello di mamma. 2 figli che cresce nella sua Detroit, lontano dalle luci dei riflettori, senza però mai smettere di pensare alle luci del palco, alla magnifica sensazione di abbracciare il proprio pubblico e avvolgerlo con la dolcezza della sua voce. I magnifici destini. Oggi ci siamo lasciati cullare dalle dolci note dell'R&B attraverso la voce potente di Anita Baker, una cantante che ha vissuto diversi momenti della sua vita pieni di difficoltà prima di arrivare al successo. Un successo che è andato avanti grazie ai milioni di fan in tutto il mondo. Anita Baker ha centellinato le sue uscite discografiche e le partecipazioni televisive, preferendo la famiglia alla logica dello star system. Non è così necessario essere presenti per ottenere dei buoni risultati. Io preferisco fare poche apparizioni in un anno e non mi chiudo più in sala di registrazione, isolandomi dal mondo come facevo un tempo. Credo che anche lo stare con i propri figli, passare del tempo con loro, possa dare quell'ispirazione necessaria a costruire nuovi progetti. Sì, penso sia proprio così. Un best of, un disco di Natale, un'altra produzione in quasi 20 anni. Non è molto. Eppure Anita Baker è considerata ancora oggi una delle colonne della musica americana e ogni sua apparizione, ogni suo concerto fa il tutto esaurito. Una fama conquistata con fatica, ma che è riconosciuta anche da molti suoi colleghi, come Frank Sinatra, per esempio, che nel 1993 la chiama a duettare nel suo famosissimo disco Duets. When you arouse the need in me, my heart says yes indeed in me. Proceed with what you're leading me to. Alive, it's such an pitch, but one I would not switch. There ain't no nicer witch than you. Adesso un po' di tempo è passato da quel lontano 1975, quando Anita Baker entra a far parte dei Chapter 8. Gli anni un po' si vedono. Anita non è più la fresca ragazza di Detroit, ma la sua voce è ancora quella di un tempo e si sente. Ad agosto dello scorso anno è uscito un nuovo album dopo oltre 7 anni di silenzio e il singolo Lately ha esordito direttamente al 10° posto delle classifiche americane. Un bel risultato per una mamma 54enne che vede con preoccupazione i suoi figli diventare adulti. Buona parte dell'ispirazione per il nuovo disco è venuta dall'osservazione della vita dei miei figli. Ora hanno 18 e 19 anni e sono adulti e questo mi spaventa. Ma nello stesso tempo sento il bisogno di mostrare loro cosa li aspetta nella vita e quali ostacoli dovranno superare per raggiungere i loro obiettivi. Per la 16ª volta Anita Baker ha ottenuto la nomination per il Grammy Award. Anche lei si dimostra stupita da questo fatto, ma lo accetta come una nuova sfida. Sono rimasta scioccata dalla notizia della nomination. Questo disco è il mio primo contatto con le tecnologie digitali. E per me, che ho sempre seguito le mie produzioni in analogico, questa nuova ricerca di suoni e le nuove tecnologie hanno rappresentato un rischio che ho dovuto accettare. Ma dietro a tutto rimane sempre una passione sconfinata per la musica. E credo che questo nessuna tecnologia me lo potrà mai togliere. L'utilizzo di programmi digitali come Pro Tools per creare musica, suoni, arrangiamenti è sicuramente una sfida difficile per chi ha studiato la musica sul pentagramma e ha costruito giorno per giorno la sua voce con esercizi e vocalizzi oggi facilmente riproducibili da qualunque computer. Ma c'è una cosa che nessun software sarà mai in grado di riprodurre e che non si potrà mai togliere a questa generazione di artisti, una componente fondamentale che rende unico un cantante e lo fa amare dal suo pubblico: il cuore.